abbiamo aumentato notevolmente le adesioni, c'è un incremento del 50% se consideriamo che aumentano le adesioni ai fondi negoziali, ai fondi aperti e anche ai piani individuali pensionistici. Il 50% in più in 6 mesi, dopo 10 anni di fondi pensione, vuol dire un bellissimo risultato. Intanto l'adesione ai fondi pensione continuerà sempre, non c'è una data finale. Noi qui abbiamo dato una spallata, un incremento positivo. Naturalmente dentro i risultati e dentro i successi che consentiranno di confermare alla fine dell'anno, compreso il cosiddetto silenzio assenso dei lavoratori, l'obiettivo che il governo aveva previsto del 40% di adesioni, tengo a sottolineare che già oggi siamo oltre il 30%, tutto questo non deve farci dimenticare anche dei punti deboli, che sono i punti deboli tradizionali. Il primo è quello costituito dalle piccolissime imprese del commercio, del lavoro autonomo, del terziario, che hanno un grande bacino di lavoratori difficilmente raggiungibile. Il secondo punto debole tradizionale, dal momento in cui si sono costituiti i fondi pensione, rappresentato dai giovani. Su questo il governo intende, nella seconda fase dell'anno, avanzare con una campagna di informazione appositamente dedicata ai giovani.